fetido cortile ricomincia a miagolare. L'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori. Un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi. L'oroscopo pronostica sviluppi decisivi in noi. Guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. E sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via. Lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibrista in bilico sul fine settimana. E sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri. La gara cronistica, la musica di ieri. Malinconia latente dei momenti più felici. Abissi imperscrutabili, le donne e degli amici. E questa storia imprevedibile d'amore e dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. Questo sabato qualunque è un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via. Lontano. Adesso navighiamo dentro un sogno planetario. Il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque è un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è la variabile